Attenzione signor Battiglio! Attenzione signor Battiglio! Attenzione signor Battiglio! Senti quanto stai essendo male! Sta essendo tutto brum brum brum brum! Cosa sei tutto qua qua qua? No, non sta facendo bene! Oh, vuole cambiare un pillo e basta, è un attimo di battiglio questo. Stai facendo male, stai facendo, non sei tu, non riesco a capire. Ah, passavo la folla. Lo so che Antonello, non riesco a comprendere. Buonasera. Buonasera Antonè. Buonasera Gianmaria. Allora, che passavo un secondo la folla. È male, non si capisce quasi niente. Io sono riuscito a capirti, però c'è tutto una cosa del genere. Ho detto di passare un attimo le folle. Mette a posto tutto, Antonè, che non si capisce. Ha detto a passare in FM. Ah, passare in FM. Ah, io proprio arrivato. Sto facendo bene, però basta. Vediamo un po'. Se lo sentiamo bene, è Bacchizio è entrato. No, non so, attenzione Bacchizio. Bacchizio è freddo, lo si sospande in poltrona, si sta riposando. Non lo so, si è impegnato. Attenzione signor Bacchizio, se l'ha impegnato. Infatti. Va bene, sono in ascolto. Già sono qua. Si chiama, già sono qua. Adesso sto usando il mio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avanti, ti intendo. Ma ancora non andava lì. Sì, devo cambiare il trim. Quello della potenza, le MC e le LC, sono tutte cose da cambiare. E più c'ho frequenzime che devo dare un'occhiata perché rimane il puntino e mi appare lo zero, quindi deve esserci qualche problema nello stabilizzatore di tensione del frequenzimetro, perché ne ho provato un altro e funziona bene. Buttaci tutto, magari. Signor Vacchi, buonasera. Rudoglio era Bruvelli lì. Ho capito, la multibanda non c'è continuità. Sì, se non c'è continuità allora cos'è, c'è qualche cosa di strano che non va bene? Senz'altro, perché se la multibanda quella V e U che stai parlando tu, quella c'è in pratica il pezzo di rame, poi ci sono dei condensatori, capito? Qualche condensatore evidentemente non sta funzionando. Ah, ho capito, evidentemente è da smontare, è risaldato, senz'altro, dai. Se adesso è risaldato dal gancio del PL, da poco caldo all'anima che c'è all'interno di quella multibanda. Poco fa stavo provando, in FM va bene, in banda laterale lo stesso, l'unico problema è la M, devo cambiargli tutti e tre i trimmer, che sono mangiati, capito? E poi devo controllare anche il frequenzimetro perché mi segna solo il puntino e lo zero. Ho provato un altro frequenzimetro, e funziona bene, quindi ho lo stabilizzatore. Devo cambiare il transistor oppure fargli qualche regolazione all'interno in modo che si accenda. parte, sono Sardegna, Secondo, Sud Italia, Tacchio. Già sono qua io. Devo far girare le rotelle. Ah, andiamo, via, andiamo. Caro Antonello, è così. Allora, via. Ma fate da tappato il bacchino, perché quando ho toccato dei fili che c'erano, tutto un tappo si è spento, il LED verde di trasmissione di ricezione. Per un coperchio c'era un pezzo di stampato staccato, c'è. Allora ho dovuto fare la salvatura nuova, ed è nuovo riapparso tutto, ma hai detto cazzo, non è possibile. Meno male, me ne sono accorto. È un ingrediente chiave. L'ultima volta sei messo al monitor, senso. Allora te l'hai dimenticato tu di farla. No, non è per quello, no. Ci ho risalvato dall'interno, capito? Oh, è per via del Forse, può essere. No. Me l'aveva fatto quel difetto, no? Davvero? Da prima, ma non me l'aveva mai fatto. Mai. E infatti adesso già è a posto. Adesso è perfetto. Tutto in ordine. Sì, signor Bacchi, è così. È così, Che stavi mangiando tu? Sì, stava mangiando, Bacchi. Cosa stavi mangiando? Mangiando i picchi, ciao. No, stamattina me li ho mangiati. Ah, sono buoni, insomma. Se sono fichi già sono buoni, basta che non pungano, che non siamo fichi d'India. No, fichi. Allora, signor Bacchi, cosa mi racconti oggi? Caldo? Adesso già acceso il sole. Signor Bacchi, che il tempo suo è fino a fine mese? Ah, ma così il capo non ce n'era attaccato, infatti ce la volevo mettere io, ma ha giubbe sulla bazzenza. È un microfono normale, per quello ti ho detto, siccome nel gavattino era la capsula, la facevo un rito. Ma adesso non c'è scheda né nulla. Deve essere un microfono però a scarico. C'è il microfono, un microfono. Stavo guardando i cocomeri tutti mangiati dalle cornacchie grigie. Ma un campo grande mio, un campo, un bel mano, guarda, mi ha danno. Oggi sto come nelle negozie vicino ai garage, grandi, occhi come ore. Ehi, la presa di Jenny, che l'hanno stamattina, io l'ho presa ieri, l'ho presa. Io me l'ho preso stamattina, di quelli piccoli. Ci sono pesa un 3 kg pesa. 2 euro quelli lì. Quanto sono buoni però? Infatti, sono buoni lì. privato o qualche comunale e il melone. Sto al bacchino, mi ho preso sia il cocomero che il melone. infatti, se sei in due. Sì, sto facendo vedere la spiaggia del quarto pessimo, dove c'è il coso dei cani, che è troppo lontano arrivare al coso dei cani, che la vogliono fare avvicinare di più sotto nella spiaggia. Bisogna farmi, lo sta dicendo, un bel pezzo di spiaggia devi fare per arrivarci. Che la nebata la fregna nel coso e da voi arrivi anche vivo, più di mezz'ora vivo. Ah boh, non lo so. So solo che stamattina, verso mezzogiorno e mezzo, c'era il UCB, c'era cosa, Livorno, e, insomma, c'era Livorno, Bari e un'altra città c'era, in collegamento in tre. Poi entra a Duginco. Di questo canale stesso ce n'era parecchio di fuori anche, però questi qua negli anni 9 arrivavano, sembravamo un po' in città. Sì, io il sia normale, ma mi inteso bene lo stesso, mi hanno sentito. Infatti, non è la magna. Certo. Sì, e domani è un altro giorno. Sì. Sì, dal 15 vede ancora, dal 15 c'è ancora peggio. Sì, tanto sempre di d'orario ho fatto io. Non è che da quest'anno non lo cambiano più l'orario, non si torna più indietro. Alle 5 deve cominciare a stare da buio. Io me ne vedo sempre alle 6 e mezzo, alle 7 manco un quarto, lo dicendo. Fatto, è scappato così, è scappato. Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Sarà un fiato, ma la mamma? Già fatto lì. Che cosa a me me l'aveva fatto, l'ha fatto prima l'iniezione per dormirla e poi l'ha fatto il coso e me l'ha data in volta, me l'ha data. Non lo so chi sia. Io conoscevo questa qua, però la chiedere fanno un paio di voti e boh, e non mi ha più rispondi. No, 40 euro mi va preso a me. Mi va preso 40 euro e prima me l'ha dormita. E poi gli ha fatto l'iniezione di DDT e me l'ha dato in volto, me l'ha dato. Ma l'aveva fatto quello di via Passo, non l'aveva fatto. Poi che la Gianni, il mio vicino, avevo posto che mi sono scendo, scende, se mi portano voci, se mi parlo. Ti conviene fartelo fare lì, ti fai un corso, e domani è sul buone drento. Purtroppo bisogna essere che gli fa molto male. Forse che gli fa molto male, gli fa. Sì, forse che gli dà la febbre, gli dà e il dolore gli dà. Sicuramente soffrendo un bel grande cucci, l'unica cosa è come a fare infatti, che di più troppo è durata, va, è meglio, ma meglio non farla soffrire, devi vedere se scende giù e te lo fa. Perché si fa così, e quando c'ha dolore lì che soffre, fa soffrire anche gli altri. Ma quando sono sceso io non era così. Più va peggiorando, e vedrai che da voi dei muri cucci si muri. Sì, è così, sono abbastanza. Sta piangendo, però fa soffrire, meglio fanno la cura e basta, no? Magari lì se scende te lo fa stare lì stesso, vai un flusso, aggiustare di... ok, ci sentiamo da domani, Bacchi. Ok, ciao. Ciao Antone. Sì, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Non c'è problema, ero al telefono fino a 2 secondi fa. Ok, a che tu senti il dottor? Cos'è? Vabbè, già non mangio niente, non ti preoccupare. Ehi, va bene, ok.